forma di modulazione, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segnalemi. Cosa? Sei anche un bel forte di segnale. Oh, oh, è so good. Non dico 9 più 20, ma quasi 9 più 20. E beh, mamma mia, che palle quest'estate, non passa più. Io a parte uscire a fare la spesa e commissioni, non faccio altro. Ancora venerdì che la va. Ehi, poi sono tornato accaldato dalla spesa di stamattina, mi sono spogliato, mi sono buttato direttamente sotto la doccia. Bello accaldato, un bijou, guarda, come essere in piscina. E io sono povero, la piscina non ce l'ho. Perché la modulazione bassa è ma qui. Oh no, assolutamente no. Andare bene, bene. Eia, pensa che ieri volevo farmi un giro a Platamona, Pro Torres, col baracchino, lo metto in macchina e fa questo innesco in trasmissione. Io non ne sto cavando piedi, guarda. Non so se l'ho detto a te o chi l'ho detto, o a chi l'ho detto. Ho controllato la base magnetica e ho scoperto che non c'è continuità nella calza tra la base e il PL. Cambio il PL e non c'è continuità lo stesso, come se fosse interrotta la calza interna, dentro al cavo. Insomma, ne ha giubugato tutto, alle 5:30 poi era tardi per uscire. Ho tolto tutto e sono rimasto a casa. Pazienza. Ed è già la seconda volta che me lo fa. Probabilmente ho quel cavo, la sai, dopo tanti anni che lo tiri, che lo togli, lo metti, ha difettato e si fa prima a cambiare base magnetica. Poi va bene, ne ho un'altra Sirio, bisogna vedere come funziona. È che c'è troppo caldo per andare a fare le prove e a tarare antenne. Si può fare di sera dopo il tramonto, a piazzare i segni. Perché non ve lo cambio il cavo? Ti spiego, Manuel. Quel cavo dentro la base magnetica l'hanno crimpato, cioè in fabbrica hanno piegato del metallo abbastanza grossetto che già ci vuole Gesù Cristo un po' allargarlo, quello che stringe la calza. E poi anche il centrale l'hanno crimpato in un centrale di ottone. Devi fare una rottura di balle che non finisce più. e alla fine è anche vecchia, rovinata, c'è la cuffietta rovinata, si sono rotti anche quei cosi sotto le viti. Cioè, l'ho vista in vendita, 20 euro su internet, più la spedizione, 7 euro, 27 euro, base magnetica nuova. Però c'ho questo assilio che sembra che funzioni ancora. Mi tengo quella, tanto è inutile averne due di base magnetiche funzionanti che hanno un beniciuro, capito? Appunto, non vale la pena perché io sinceramente in macchina non mi avrei messo. Se non c'è nessuno, cosa va? Anche dell'UQRM. Sì, magari non per adesso, magari per settembre. Per settembre, dai, adesso sono tutti fuori. È una cosa allucinante. Non sto sentendo più un bel di gente, a parte ogni tanto qualcuno sul 23 o qualcuno in PMR. Tutto lì. Non vai più nessuno in PMR, ogni tanto entro io. Ogni tanto, per sentire contro Nino, contro Maria, Marino, anche tanto in 27 non va più nessuno. Arrivi bene qua, arrivi bene sia dalla parte interna che dalla parte esterna del palazzo, cioè il lato strada e il lato interno, arrivi bene, molto bene. Ma dici in PMR, Marco? Veglia. E vabbè, lì c'è un'antenna sul tetto, ci ho messo. Ah, eia. Ok. No, io ho questi antennini per ricevere, sì, sono esterni, ma sono sempre bassi. Bassi. E qua troppo cavo ci vuole. In UHF perde... Cioè io quelle le uso per ascoltare i radioamatori. Se lo dovessi mettere sul tetto ci vorrebbero 50 metri di cavo e avrebbe una perdita eccezionale su quelle bande. Quindi tanto vale non metterne. Sì, a meno che non si metti un 155 di cavo, ma però la perdita c'è sempre perché sono troppi metri di cavo, troppi. Sì, se guardi la tabella dei decibel perduti in base alla frequenza, soprattutto in UHF, non ne parliamo, praticamente il poco che guadagna l'antenna lo perdi tutto, anzi va proprio in negativo, perde tantissimo. E pazienza, dai, ci accontentiamo di quello che ci passa il convento. E io ne ho 30 metri, fate il conto, 30 metri di cavo, quella frequenza lì. Cavo buono, 155 almeno, sì. No, il 155 ce l'avevano a 26, no, in questa frequenza qua. Il cavo più lungo c'era nelle altre frequenze. Cavi ci vogliono, porca miseria. 50 metri sono veramente, ma veramente tanti, perché fa tutto un giro strano, il palo dell'antenna, poi l'antenna è al centro del palazzo praticamente, poi dal centro deve andare al bordo, poi deve andare a sinistra verso l'angolo, poi fa tutta la calata di numerosi piani fino al mio terrazzino, entra dalla parte alta, deve fare altri metri per arrivare vicino alla finestra, poi deve calare di altri 2 metri, poi un pezzettino, mezzo metro a sinistra, e poi entra dal foro che c'è, il foro preposto. Poi se ne vuoi lasciare comodo 3 metri dentro, insomma deve arrivare anche qui, per finestra a 3 metri di distanza, fai 3-4 metri. È un casino, non ne vale la pena. Tanto i radioattori li ascolti benissimo anche con le antennine quasi interne, dico, basta che si affacciano alle finestre e arrivano i ponti, arrivano bene, i radioattori locali arrivano bene, i pochi rimasti. Ma tu perché non ce l'hai sul tetto neanche tu l'antenna? No, sul tetto solo quella del baracchino, la Energy. Beato te ce l'hai sul tetto, io ce l'ho solo nella pianta delle pere, sono proprio precario. martedì. Eppure, Manuè, me ne accorgo della perdita del cavo, perché molti che ricevono propagazione a 9, 9, 10, 9, 20, a me sta sotto il 9 quella propagazione. Cioè io, conta che ho messo il cavo grosso per il baracchino, ho messo il cavo RG213, eppure se, sempre guardando la tabella ti accorgi che il poco che guadagna l'antenna lo perdi e quindi è come avere guadagno zero. Sì, non lo posso immaginare, è così infatti, è proprio così. Sì, ma per città ce n'è d'avanzo, per città va più che bene. Io quando abitavo una via più giù avevo l'antenna molto più in basso, era proprio chiusa dei palazzi, chiusa, ed era una Grand Plain nel lontano 1984. Una Grand Plain tre radiali, chiusa dai palazzi e cavo sottile pure, 30 metri cavo sottile. E quindi ero piccolino, più di adesso, dico, come copertura, dai. Te lo ricordi, non so se te lo ricordi, Marco, a Sirio? Ma un nominativo, Sirio, no, non mi sovviene, nome di persona, nome proprio. Allora, avevamo messo l'antenna sul grattacielo, una manca va uno. L'avevamo piazzata io, Pompugno e mi sembra, non mi ricordo chi c'era un'altra persona. Cioè, ci aveva fatto il conto nel grattacielo di Santa Maria di Pisa, quanti metri sono? Saranno più di 100 metri. Il cavolo, cioè lui abitava ai piani bassi e il cavo doveva arrivare fino al tetto, caspita, e beh dimmi. Lui abitava al primo piano, pensa tu fino ad arrivare su con l'antenna. E che cavo aveva messo, te lo ricordi, sottile o grosso, scommetto sottile? No, aveva, allora prima si usava il 213, quello grosso, quello rigido. Ah, ma sai cosa ci usava? Mi pare che non c'era il 213, forse era l'RG8, giusto? Sì, bravo, l'RG8, quello grosso, quello rigido, per carità, non si piegava neanche a morire quel cavo. Ma dico, nonostante poi l'antenna fosse in alto, lui si accorgeva che aveva perdita o no? No, usciva, cazzo si aveva, usciva bene. Eia, vabbè, uscire è molto relativo, sì, lì diciamo è che l'antenna era molto in alto, lo spazio era molto libero, però sicuramente perdita ne avrà avuto, anche in ricezione parlo, in ricezione, vabbè, Sirio, mai detto, no, non me lo ricordo, sì, sai cos'è, Emanuele, noi all'epoca avevamo una greffettina nostra di giovane, ce ne stavamo su un canale nostro, alla fine non è che attaccavamo un bottone con molte persone, è la verità. Stavamo nella ruota nostra, perché a seconda di che ruota entravi ti si mandavano, medaglienti. Già, ma non posso immaginare, prima era tutta un'altra cosa. Vabbè, sono altri tempi, sono passati quei tempi lì, dai, sono passati. Oppure c'erano i signorotti all'epoca che ti facevano pesare e tu non sai nulla, perché ero tredicenne, no, quattordicenne, ero novizio, non sapevo nulla in effetti. E tu non sai nulla, capito? Ti rubasiano di pesare. Sì, vabbè. Va bene, dai. Ma comunque quei tempi lì cazzo ce n'era di gente, e ce n'era, veniva un bel di gente a quel tempo lì, ci sto parlando di cos'è, più di 30 anni fa. 35 anni fa, fino a 85, 95, 2005, 2015, io ho entrato nell'84, 36 anni fa da quando sono entrato, mamma mia. Vorrei poter dare l'anima al diavolo e ritornare tredicenne, caspita. e ritornare giovane, porca miseria. Io lo stesso, però c'avevo siamo 16 anni, sì, un 16, 17 anni c'avevo, quando mi è stato con portate. Dal portatile mi hanno messo questa zoria, per carità, prendeva colpa a tutto andare con la radio. Ah, gli splatter. Ma sai cos'è anche, Manuel? Che noi gli splatter ne avremmo preso molti meno se la gente avesse modulato correttamente, senza usare 100 watt, se non 1000. Perché io mi ricordo che uno al centro Sassari, per modulare con l'amico suo che era sotto casa sua era proprio, no? Aveva il BV131 attaccato. Se avessimo modulati tutti più onestamente con 4-5 watt, boh, è che c'era la mania dei lineari, c'era la mania della forza. E quindi a molti non gliene fregava proprio niente se chi prendeva splatter. Dicevano si diceva gli splatter chi ce l'ha se li tiene. Una cosa è essere splatterati da uno che usa 4 watt, 5, e una cosa è essere splatterato da uno che per parlare in città ne usa 100 o se non di più, capito? Prima erano così, prima, anche adesso c'è qualcuno che se piace la linea della potenza, vabbè, quel visto non lo perderanno mai, però ci sono anche adesso, o prima o dopo ci sono sempre. No, adesso in confronto siamo proprio in estinzione, una razza in estinzione. Adesso mi ero fotocopiato anche il certificato di conformità, visto che la concessione non te la devi manco più portare in macchina, comunque io per tutto l'anno me la porto poi. In caso di controlli mi sono stampato il certificato di conformità dell'apparato omologato e me lo sono plastificato così non si rovina in macchina, può prendere anche umidità, caldo, non lo ingiallisce, capito? Non succede nulla. Fatto bene, ma io ancora sono perplesso che questa concessione non ci vuole più, qualche cosa sotto ci sarà, non lo so. Purtroppo guarda, si sta vedendo un po' in tutti i campi, quando qualcosa viene modificato di solito si va a peggiorare, cioè magari sì, non è più obbligatorio fare la concessione, pagare 12 euro, che ne so, magari intensificano i controlli su strada, no? E se non c'è l'apparecchio omologato in macchina è un casino. Poi ho sentito che stanno iniziando a fare piano piano in Europa e anche in Italia lo faranno. Stanno romperanno le palle per chi fa DX sulla tripla 5, perché quella dovrebbe essere assegnata a Ministero di cos'era, anche se poi non ne usavano, probabilmente o vogliono assegnare nuove frequenze a nuovi servizi o li vogliono comunque sfruttare appieno. E quindi stanno cominciando a sanzionare chi beccano dopo il 40 che fa DX, capito? Anche camionisti su 45, no? Che loro usano potenze anche spropositate, diciamo, no? Però per colpa magari di chi usa potenze spropositate, poi ci perdiamo tutti, capito? Sì, ma fate così. Per colpa di uno, vabbè, ci perdiamo tutti, sì. Per colpa di una persona è normale, ci passiamo tutti. Chi è che vuole andare avanti? C'è qualcuno sotto. Comunque sei 9 più 20 affettivo, Manuele, 9 più 20. Sei persino più forte dell'altra volta che dei 9 più 15, ti ricordi? Ma la torna sempre lì, Marco. Io l'ho spostata, allora ti dico, l'ho spostata appena appena perché rimaneva proprio davanti alla facciata. L'ho spostata un pochettino verso destra in modo che rimaneva aperta sia da una parte e sia dall'altra. Eia, buono, buono, dai. E poi cosa ti volevo dire? sì, comunque, hanno fatto peraltro, come uscita la Gazzetta Ufficiale, siccome era un po', poteva essere interpretato in vari modi, credo che abbiano fatto una cosa integrativa che spiega più chiaramente che non si pagano più i 12 euro e non bisogna fare più la dichiarazione di inizio attività, e si chiamava così, poi non si chiamava più concessione come una volta. L'hanno scritto più chiaro per chi, sai, si può sempre prendere un abbaglio. Poi la Gazzetta Ufficiale è scritta in burocratese, peraltro, no? E vabbè, per me. Poi, comunque, vedrà che qualcosa già uscirà per questa roba qua, perché mi sembra assurdo che hanno, in punto in bianco, che hanno tolto questo cavolo di bollettino. Che vedrai che sicuramente toglieranno qualche altra cosa nuova, vedrai. Ah, qualcosa da pagare, ma magari non li paghiamo da una parte, li paghiamo dall'altra. Quello che magari uno preoccupa di più è che possano intensificare i controlli anche in strada. Vabbè, che io questo mi porto in macchina, 3.900, 40 canali, 4 watt, cosa devo fare? È quello che esce meglio di radio, poi meglio di quell'Intec pure, che si è rotto tutto il cordone spiralato, si è tutto disintegrata la guaina dello spiralato, mai vista una cosa del genere. Giusto Intec le poteva fare quelle schifezze. Vabbè, dai. Vabbè, anche da Intec che qualcosa di buono ce l'ha fatta, dai. Non sono tutti, dai. Sì, ma poi le Intec in realtà non fa nulla, cioè rimarca apparati di produzione asiatica. Asiatica, Cina, Vietnam, Thailandia. Oppure quell'altro paese. Malesia, per esempio, questo è fatto in Malesia, i 3.900 omologati dal 2010 in poi erano fatti in Malesia, credo che abbia peraltro chiuso la fabbrica, perché c'è il sito ma non trovi quasi più niente, come se stessero chiudendo anche il sito. Non trovi più niente, fa un po' non trovi più nulla, non trovi più niente, Moscuri. Ma ieri sera siete entrati in radio, io mi ho fatto, ho provato a accendere, non c'era l'anima, non c'era. Ma io ieri, aspetta, non so chi l'avevo detto questo della base magnetica, o sto sbagliando io, o ero da altre parti, ma non ero magari in 27, vabbè, manco me ne ammento. Ma non sto sentendo più da giorni e giorni, se non settimane, Tonino. Era entrato qualche giorno fa, beccato, l'abbiamo fatto entrare e poi è scomparso. Ma non è successo nulla, no? No, è tutto a posto, Mascoli. Eravamo assieme l'altro giorno, l'altro ieri. È tutto a posto, un po' di dolore, cioè, di ernia del disco, come me. Che questo problema qua mi sembra ce l'hanno un po' tutti. Sì, ma anch'io in forma lieve. A me sai dove prende quando. Allora, la colonna vertebrale all'attacco col bacino. Nel punto in cui la colonna si attacca al bacino, lì proprio ho tanto mal di schiena. Ed è a ondate, però ci sono mesi che non ne ho, ma certe volte quando viene è seccante. E tu sport ne hai fatto da giovane, Gio Manuel? Di sport ne ho fatto sì, Marco, ho fatto sì anno e mezzo di pugilato, ho fatto i campionati interregionali e da novizio. Poi devo passare da dilettante, ma poi mi sono stufato, lo sai, quando poi esci con la tua ragazza e qui e là, ti stanchi per stare lì a allenarti. Insomma, tu hai fatto sport e dolori lo stesso, no? Perché molti dicono che chi fa sport, chi ha fatto sport, comunque chi tiene il corpo allenato e il fisico ne giova, e invece sento che tutti sono a dolori, anche chi faceva sport o chi magari tuttora lo fa, dolore alla schiena, viene il disco, boh. Quindi tanto vale non fare nulla di sport come ho fatto io, i dolori vengono comunque, che tu ti adoperi, che tenga bene il fisico, che non ne tenga, i dolori sempre vengono a una certa età. Sì, ma non è il fatto dello sport, praticamente io sono così perché, cosa ti dico, ero iscritto alla Camera di Commercio, lavoravo in proprio, là facevo il posatore di marmi, per carità, un lavorasse proprio, neanche gli schiavi lavoravano così, portare su marmi dal terzo piano, e lavoro molto faticoso, e poi me l'ho spaccato anche da lì la schiena, per quello che sono con tutti questi problemi qua. E vabbè dai, adesso vediamo un po' di sistemare, perché cazzo così non si può andare, ogni mattina ci vuole Gesù Cristo, perché a freddo fa più male ancora. Ecco, per lavori pesanti, è un po' come è successo a Gianni, doppio rum, e lui in magazziniere spostava casse di birra, roba anche, cioè quando lo fai per 30 anni, se non di più, alla fine ne risente la schiena. E così è. Va bene, è andato un amico a Platamona, l'altro giorno, dice che non ha trovato parcheggio, tutto pieno in ogni dove, e dice che ha notato anche che chi era nel parcheggio non regolare sono passati vigili a fare strage, a fare fiumi di verbali, tutti quelli che hanno trovato in divieto di sosta, di sosta e fermata, tutto multa, comincia a diventare problematico. Poi ad agosto adesso c'è il pianone, quindi devi altro che devi vedere in spiaggia, altro che distanza, che distanziamento sociale. Sì, adesso ti tentano pure adesso, secondo dovrà metti subito verbale, e già gliela puoi cambiare, sì, la multa, già gliela puoi far levare, sì, neanche per le palle, come scrivono subito. Sì, a meno che non abbia conoscenze lì. In una spiaggia in Toscana l'hanno fatto, a me aveva dato un po' di fastidio una volta, perché a Platamone io sono arrivato, no? Ero bello distante da tutti i gruppi, cercavo abbastanza spazio intorno, no? Ben più della distanza minima di sicurezza. Poi come arriva la gente, più tardi, cazzo, arriva e ti si posa accanto. Metti che arrivino i vigili e dicono: voi siete troppo vicini, multa l'uno all'altro. E io come faccio a dimostrare che ero arrivato prima e che mi si sono attaccati gli altri? Cosa devo, arrivare sul posto, documentare lo spazio con lo smartphone, come facendo il video? No, per carità. Addirittura adesso ti tentano pure quando esci dai ristoranti, se hai bevuto o non hai bevuto, ti fermano, e se hai bevuto per dire una bottiglia di birra, al cazzo ti ritirano anche la macchina, per due bicchieri di birra, figurati. Poi doppio rum, finalmente. Buonasera dotto. Finalmente, io accendo, non per mai nessuno. Ho sentito solo la Gigi Vulcano in questi giorni, che stava facendo delle prove, bubba. Stavamo parlando male di te, Gianni. No, stavamo accennando che come Emanuele ha fatto un lavoro pesante a portare lastre di marmo e avrà influito a fargli anche l'ernia del disco, no? A peggiorargli la schiena. Ho menzionato te che lo stesso per decenni hai fatto un lavoro un po' pesante e caspita, quando lo fai 30 più anni alla fine incide come sulla schiena? Adesso gli atleti sono tutti quanti elitici, ma prima c'era la traspalla a mano, a tirapedale e cose, lui Ciao Manuele, ciao. Manuele è morto. Come sono andato a prendere la bottiglia d'acqua, scusate che mi si asciuga la bocca a me spesso. Oh Gian, cosa ti volevo dire? Io mi stavo azzuffando domenica, ieri, mi stavo azzuffando con la base magnetica e il secondo apparecchio che collego in macchina, no? Premo la portante per e innesca. Ho detto, oh balle, non lo so, c'è qualcosa di strano in quella base magnetica, non tanto l'antenna quanto la base. Ho trovato che non c'è continuità tra il PL e proprio la calza che si fissa alla carota della base. Ma io non so se ci sia mai stata questa continuità, perché il PL gliel'ho cambiato, proprio al baracchino, bello si è andato bene, e non c'è continuità. C'è qualcosa che non sta andando bene in quella base magnetica e quindi devo verificare. Proverò con quell'altra base Sirio da 16, casomai meritaro l'antenna per la base Sirio e l'altra la accantono se ha problemi. Te la prendi la mia, che ho deciso di non cercare più nulla, che sono rotto. Sono passato dall'elettrotto, sono in attivisti, da me sede, mamma di sede, c'è dei lavori da consegnare, questo e quell'altro. Tutto su a casa. Oh, vabbè, l'elettrauto, vabbè, sei in procinto di andare in ferie, però vedi Gianni che differenza di personalità, quello poveraccio che è morto, che era in via Catalocchino, cioè tu passavi lì, magari dicevi guarda oggi sono incasinato, però dici aspetta, lasciami la macchina, passa fra mezz'oretta, fatti un giretto, che non ti preoccupare, già sempre diceva così e sempre me l'ha messa a posto qualsiasi cosa gli chiedessi, anche quando era incasinato. Invece quando iniziano così non ne hanno voglia, ti fanno passare la voglia. Comunque vabbè, non perderti d'animo, e se non è uno è l'altro. Da che sei andato tu Gianni? Poi rilanciamo Manuele. Da quello che c'è di accordo vicino a casa, là. Via Montello. Ma quello dove mi avevate indicato voi di andare tempo fa? Oh, non ho sentito risposta. Ecco, per esempio, adesso Manuele, adesso ti rilancio. Io sul vostro consiglio, no? Purtroppo quello era morto, poveretto. Era molto in gamba quello di via Catalocchino e purtroppo i migliori se ne vanno sempre. Dovevo fare una cambiare un componente, no? Io non ne sapevo nulla. Dice, però bisogna comprare il componente. E lì stavo per dire, ma scusi, allora vado, me lo compro io il componente e me lo piazzo io. Cioè, se le lascio la macchina, le lascio anche a risolvere il problema. Infatti, ho sentito così. Ho detto, vabbè, vedrò. Ho comprato il componente e me lo sono piazzato io. Sai che cos'era? Era la pulsantiera nuova che si era bruciata, avevo proprio visto uscire, la pulsantiera nuova alzavetri lato guidatore. C'era uno spinotto, semplicemente un connettore multiplo da collegare, comprata e piazzata, e si la biglia in culo, capito? Quando non ne hanno voglia, dice, ma bisogna comprare il pezzo. Io sono un pirla, la porto all'elettrauto perché non so nulla, no, me lo deve fare lui, capito già? Riprendi Manuele, forse l'abbiamo lasciato un po' in bianco. Manuele, ci sei? Manuele così, ogni tanto sparisce, insomma, cosa va? Ma stavo dicendo, sì, è così, ma c'è poca luce. Anche, ho chiamato anche l'idraulico, sto facendo un lavoro, ha controllato, sono qua che ci va bene, ci vediamo tra qualche giorno, ho visto lei, il telefono risponde. No, ma se non funziona, deve essere chiamato tutti su. E scommetto che tuttora è così, mi. Cioè, nonostante il periodo di crisi, che adesso ti faccio un esempio, chiami l'idraulico, no? Ti fai vedere una cosa da mettere a posto e comincia, però è difficile, ci vuole questo, ci vuole quello, e lì ti viene da sbottare e chiede, scusi, ma lo sa fare? Sì o no? Se non ne chiamiamo un altro direttamente, o lo fanno per tirare sul prezzo, me. Capito? allora cominciamo, è difficile, vediamo cosa si può fare, ci girano intorno, capito? Con una volta mi sono interessato il lavandino, ho provato con l'idraulico liquido, col Nigra, niente da fare, non voleva bloccarsi, allora ho chiamato l'idraulico. L'idraulico, ho chiamato uno che su internet, ho guardato, prima che è capitato chiamato, e poi sì, vabbè, vediamo stasera. Viene, prova con la pompa e niente, ci mette un liquido e niente. Mi ha detto, guardi, non si può fare nulla, bisogna rompere tutto, bisogna smontare la cucina e lasciare tutto sì dallo scarico. E se ci pensa, me lo faccio sapere. Comunque adesso sono 90 euro, le 90 euro perché cosa? Non mi avete risolto il problema, devo pagare. Eh sì, ma ogni volta che noi usiamo la pompa, sono 80 euro solo la pompa che usiamo, qui l'intervento e sono 90 euro. Dato 90 euro, poi chiamo un amico mio che fa l'idraulico, non gli ho detto nulla di questa storia, è venuto, ha messo la pompa invece che a 40 l'ha messa più alta e metto già, ho la prova spacca, adesso metto questo liquido, faccio agire e poi proviamo. L'ha spruzzata prima con la molla, l'ha fatto andare fino in fondo, avvitandola così e ha buffato il buco, poi con la pompa ha pompato, prof, e ha sbloccato il buco. Eia. vabbè. Certi invece sono dei draghi, certi idraulici no, io magari metto le paranoie, ma non è che le serve roba, le serve questo, le serve... No, tranquillo, tranquillo, fatto, una volta era rimasta a bocca aperta, questo è un mago. E una volta invece mi è capitato un idraulico che è arrivato a mezzo bevuto, per cambiare le guarnizioni, e tanto io non ho quelle chiavi grosse, no, per svitare i rubinetti, o meglio le avevo, le ho perse, e anziché portare le guarnizioni è venuto con una bustina di guarnizioni vecchie, cioè già usate, e cosa dovevi fare lì? Sai cosa ha combinato? Sì, ha messo questa guarnizione un po' usata, vabbè, non ti chiede niente, cioè quasi niente. Poi sì, comunque ha eliminato la perdita per dire, però cioè, non ti presenti, è un cliente con le guarnizioni usate da idraulica e soprattutto a mezzo bevuto. No, invece io chiamavo sempre mio padrino per cercare un rifugio e non ho fatto chiamare. Uno scaldabagno a 200 euro mi ha fatto pagare. Quanti litri? 80 litri, però è di quelli elettronici che te ne dà qua a calda 3 giorni. Io non saprei, guarda, io ho sempre preso scaldabagni da, il nostro è da 80 litri o 60, mi pare 80. Quelli classici Perla, quelle marche storiche, Perla, adesso non mi ricordo le altre marche, no. Normali, no, normalissimi. Che altro, vabbè. Una volta, caspita, ci eravamo usciti... ero senza macchina, no, tanti anni fa, e con un amico ho detto, non è che ti viene bene, andiamo a pigliare uno scaldabagno che si è bucato, sì, e praticamente ci siamo usciti alla CM Elettronica di Polo Torres per comprare uno scaldabagno. Allora questo scaldabagno anziché da 80 litri era pure da 60, ho detto guarda che è più piccolo, no, già è grande, già invece era 60 litri, beh, era uno Zoppas, è durato meno di tutti gli altri scaldabagni marca Perla o simili che ho avuto in passato, è quello che ha durato meno di tutti, credo 2 anni, poi si è bucato, e invece sulla scatola c'era scritto tutto le menate, che poi sono tutti così, vetrificato, coso, isolato, lunga durata, le balle. Poi io posso mettere solo gli Ariston, perché le staffe che ci sono fatte in base agli Ariston, non ci sono altri scaldabagni che vanno bene, solo gli Ariston vanno bene, gli altri sono più su o più giù e cose, lo si possono mettere, perché sopra c'è praticamente il suffitto, no? E se no tocca, e sono messi a quell'altezza lì giusta giusta e ci fanno bene solo gli ali. Eia. Ma poi elettronico immagino che abbia una gestione più ottimizzata, diciamo, della corrente, dai. È come dire, è un classe A più. Da me c'è il termostato, no? Quando scende la temperatura, attacca, poi si spegne, no? Quello è, sì, sicuramente gestisce meglio là il tutto, no? Per ridurre i consumi. Bene. Emanuele, sei rientrato? Cosa strana, certe volte entra uno e c'è l'altro, anche con quella ruota che avevamo l'altro giorno, quel giorno che è strano che è entrato un dirigente, entra uno e c'è l'altro, vabbè. E poi c'era perché sono entrato io e sono andato qui. No, perché? Oh, yeah. Bene. Ah, pure, comunque, ho già una cosa strana. Questa antenna, no? Io da quando la tarai era sempre 1 e 2 sull'1 e 1 e 2 sull'80, no? Per dire, cioè, ho voluto il centrobanda sul 40. Poi non mai usata poi per i DX eventuali fuori banda. E ieri, nonostante l'innesco, cioè le stazionarie erano 1 e 1. 1 e 1, ci andava sempre bene l'antenna, però non c'è conduttività tra il PL e il PL dove abiti l'antenna. Io non ho capito se quella base magnetica Midland è fatta apposta per quell'antenna, perché quella Sirio ha la continuità ovviamente tra il PL femmina della base e il PL che va al baracchino. Boh, non so che pesci prendere. Va a controllare l'attacco che c'ha. Ma proprio sarebbe la stessa scala. Per esempio il centrale è perfetto, il centrale c'è. La calza io non ho provato, riprovato, toccato calza con calza da un'estremità all'altra, eppure. Poi questa calza, devi vedere che calza schifosa che aveva questo RG58, no? Della base. In rame poco fitta e praticamente come sono andato a col taglierino, ho fatto il taglio di lungo per mettere il PL nuovo, cioè come tiravi poco a poco si sfaldava tra le mani questo rame, sembra roba cinesaccia proprio, anzi sicuramente è roba cinesaccia, perché non ne produce Midland mette il marchio, ma è tutta roba cinese, stesso discorso per antenare il tetto, questa marcata Midland alias Sirio è fatta in Cina. C'era scritto sulla scatola, la Midland mette solo l'adesivino Midland modello New Energy. Io se dovessi piazzarla in macchina ci metterei da qui 18%, qui avrebbe un bel come, ma non ne faccio perché devo bucare, infatti non voglio rovinare niente. No, infatti è troppo nuova quella macchina, troppo nuova per bucare. Penso io non ho voluto bucare quella vecchia, ma sai perché? Non tanto per l'estetica, non me ne frega niente, è che ho paura che se il lavoro non è fatto ad arte ci siano infiltrazioni dall'attacco centrotetto, capito? Infiltrazioni d'acqua e poi si macchia pure il soffitto e diventa tutto uno schifo. No Marco, io ti assicuro che poi dove sono andato io a me non entrava un goccio d'acqua, niente, e mi ha messo il mastice attorno prima di stringere l'antenna, ha messo il mastice e tutto attorno dove l'aveva bucato, non nelle pareti, ha messo questo mastice e poi ha avvitato e mi ha detto così non entra nemmeno un goccio di acqua, ha messo il mastice grigio. E non me ne è mai entrata di acqua, sempre è stata perfetta. Vedi, quello è un lavoro fatto bene. Molti centrotetto, poi il centrotetto deve essere anche buono, io lo sceglierei con l'attacco PL ovviamente, perché ci puoi mettere non solo quella di baracchino, ci puoi mettere tutte quelle VEU per ricevere radiomotori, quella HF per ricevere l'HF, vabbè avendo ricevitorino che adesso non ho. Sono sempre io, compro la roba, me ne stanco, la vendo, me ne pento, poi me la ricompro, me ne ristanco, me la rivendo. Vabbè, per adesso niente comunque. Dicevo, ci sono attacchi centrotetto fatti bene, con tanto di guarnizioni e controguarnizioni, e ci sono attacchi centrotetto fatti più in economia, che se non lo isoli col mastice davvero lì ti arriva la pioggia goccia a goccia. Perché mi ha detto che praticamente la guarnizione è più circoncisa e non ha più la presa buona, capito? Mentre invece se tu sotto la guarnizione ci metti il mastice attacca la carrozzeria e come stringi te l'attacca bene, capito? Quindi no, anche se si consuma la guarnizione, acqua non te ne è. Poi mi ha messo tutto quanto nel cavo per non fare rumore, mi ha messo questo nastro con la gomma piuma, praticamente, per evitare che quando si muove facesse rumore. Infatti io non sentivo nulla, rumori non ne sentivo. Poi mi ha riattaccato il cielo, tutto quanto bene, ha fatto bene, non si vedeva nulla che aveva fatto l'impianto, tutto bello nascosto, bello fatto. Se poi andavi nella batteria, i fili erano tutti quanti tutti fascettati, c'era il fusibile, il cavo grosso, insomma, era fatto bene, là. Seia, questo chi era, te lo ricordi? Che meccanico era o carrozziere? Non è meccanico né carrozziere, è Pudi, che è quello che piazza gli stereo, quelli che fanno le gare al quadrato, per il tecnici. È Pudi, che è quello che c'è via Monte Lobasso, dove c'è il produttore di fronte. Ah, piazza solo autoradio, comunque raggio tutti i lavori dentro l'abitacolo, dai, diciamo che fa. E anche alla dashcam stavo pensando, però i cavi vanno fatti tutti sparire, passano nel, come dire, come si chiamano quei, i passanti ai lati del vetro frontale, uffa, non mi viene in termini. Praticamente mi ha chiesto 100 euro per fare il piano. Sì, perché bisogna pentarsi, bisogna aprire, scollare bene, rimetterti a posto, cioè, poi tu mi hai detto che è come che non avesse toccato nulla, perfetto, invisibile, quello è un lavoro fatto bene, vedi, a seconda di chi lo fai fare, ti rimbala pure il coso, mira, la moquette sopra in testa. Quindi ho fatto 1000 di impianti della macchina, fatti bene, fascettati, tutto quanto, però in questa qua non c'è buco, non si trova, solo loro lo sanno da dove passare i fili, capito? Lo sanno solo loro. Poi con la spira delle centraline devi stare attento, insomma, ho paura anche per quello, perché l'altra centralina dell'altra macchina, quando avevo attaccato quella curia là, me l'ha bruciata. E cacchio. E poi Gianfranco diceva appunto che nelle macchine molto moderne, la tua è nuovissima, altro che coso diretto dalla batteria, da accendisigari, vabbè, è sottofusibile, passa per centraline, contro centraline, cioè a complicare le cose così, vabbè. Non bisogna toccare nulla, non bisogna aggiungere nulla alle macchine nuove, perché è fatto tutto da ingegneri, l'impianto, e praticamente non ci devi mettere mano, perché se ci metti mano magari è capace che tu metti un filo e ti dà problemi per un'altra cosa, capito? Guarda, poco ci manca che uno si mette a modulare col baracchino in macchina, c'è qualche rientro di RF e gli ti esplode in faccia l'airbag, eh? Magari comandato da qualche centralina, gli entra qualche segnale strano, oh, ogni abusilada. Tutto comandato la centralina, anche la frizione, per dire, non c'ha più filo, è tutto comandato, ci sono i sensori che vanno alla centralina, la centralina può frenare la macchina, fa cambiare le marce. Cioè la frizione non ha più il filo, ma nemmeno idraulica, c'è un contatto elettronico che comanda altre parti. Poi, mamma mia, vabbè, è delicata, bisogna averne cura anche lì, perché poi se si trascurano queste macchine con tasta roba elettronica è un macello, porca miseria. Una volta erano belle quelle macchine che aggiustavi con fil di ferro e nastro americano. questa tecnologia a me non piace. Una, io dovrei cambiare la nuova, comincio a fare un momento dove c'è una cosa che mi piace molto, e mi chiedevano anche un'altra che mi portava il quarto, perché loro non potevano prendere la strada, certo che mi chiamano tutti, questa cosa fa 1500 euro. Questa cosa ho fatto un po' di fermato, ho fatto il fermato, la macchina è morta, come vedete, sono stati un'altra. Ecco, questo qui è il discorso che fa. Adesso l'avete visto. Adesso mi sono rotto veramente le scatole, non ci sono commentato, sono stato rotto le scatole, perché c'è la quarta volta della porta, mi sono stato finito la garanzia e non mi ha perché ancora fatto niente. Ma sei lontano dal mic perché ti sento più basso. Adesso come mi senti? Guarda, 1, 2, 3, prova. Ora, attenzione Marco Combo, se mi ascolti, cambio basso. E adesso è un bijou anche troppo, da. Sì, prima probabilmente ti eri allontanato, tipo come se io parlo a questa distanza, dai. Sto parlando con microfono normale. Il migliore. Effetto presenza. Non è così, dai. Ma Manuele, niente, non è rientrato. Manuele, ci sei? Sempre così, che assenza, senza dire nulla. Ma che stavo dicendo? Dopo questa entrata qua non andava bene, perché va il doppio modulatore, quindi ha subito più corrente, vai più. È per quello che non andava bene la CPC, se tu metti la batteria diretta va bene, infatti l'ho fatto, ho fatto le prove e mi detto che andava benissimo. Eia, eia. Comunque già secondo me non ti ho detto, adesso sempre parlando di basi magnetiche, ho montato la stessa medesima antenna sulla base Sirio, quella da 16 cm, quella ultra piatta. Beh, innescava lo stesso, anche col motore acceso, l'ho provato a motore spento, motore acceso, non c'è che forse la batteria, innescava. Cioè, la mia impressione è che questi apparecchi, tutti SMD, tutti fighetti, eccetera, risentano un po' di rientri di RF in base all'antenna che metti. Oppure potrebbe essere il cavo di alimentazione dalla batteria che è troppo lungo, perché tu conta che già il cavo di alimentazione è lungo, arriva dalla batteria, finisce sotto il sedile del passeggero e fa una leggera curva, quindi già è lungo di suo, in più il cavo del baracchino, aggiungere un altro metro, se non metro e mezzo, perché certi baracchini hanno cavi chilometrici, se c'è un rientro è da lì, però il 3009 non ha problema alcuno in macchina. Invece altri apparecchi, questi tutti col display digitale, SMD, è già il secondo che fa una magagna del genere. Cioè è inutile avere un veicolare che in macchina non riesce a modulare. Infatti 3009 forever. Anzi, mi sono pentito di non aver preso quello dalla Spagna pure. Per usi futuri. Ma io già ce l'ho 3009, ma è troppo grande per mettere in macchina, Marco, dove lo metto? Oh, non c'è posto, sempre faccio la macchina via, non c'è posto. Dentro il cassetto non ci sta. Poi sotto il cassetto non va bene. Messo di fianco c'è, è concavo e quindi non ci arriva l'attacco. Ehi, Ah, sai ieri sera che l'ho raccontato, ecco adesso me ne sono ricordato. Stavo parlando a Emanuele prima. E dopo tanto ho sentito Francesco Uranio da Ugilo. Arrivava anche molto bene di radio e aveva una radio a bella effetto presenza. E gli stavo raccontando di questa base magnetica, del rame che si spaldava in mano, cioè. Però per dire il 3009, componenti classici, nessun problema, né in macchina né a casa, dovunque lo metti funziona. Questi SMD, boh, a me non mi ci valani. Sono belli come apparecchio, ma adesso non lo so se il macchino c'ha SMD o se c'ha sì, mi ha fatto il 3009, alla fine è la scelta migliore. Ah, ti dicevo già, io una cosa non riesco a capire, no? Cioè, queste macchine moderne, no? Vantano che sono comode, spaziose, tutto quello che vuoi, e poi non ci sta un misero baracchino. Cioè, tu l'hai visto dove l'ho messo io? Cioè, davanti al passeggero c'è il cassettino, no? Io sotto il cassettino, agganciato con le staffettine, con quelle viti e quel galletto che io faccio uscire dalla parte interna del cassettino, cioè l'ho svitto e l'avvito così, dai, in pochi minuti. Però il passeggero poi con le gambe sta comodo, cioè il baracchino non dà fastidio alle gambe del passeggero. Al limite basta far scattare il sedile uno scattino appena appena più indietro, ma problemi non abbiamo mai avuti. Invece tutti si stanno, chi vuole il baracchino in macchina, si stanno prendendo questi CB microscopici, tipo pacchetto di sigarette, piatti, se lo mettono nelle portiere, se lo mettono nel tunnel centrale, no? Dove c'è quel cassettino. Ma è possibile queste macchine moderne, tanto spaziose, tanto comode, no, non ci sta niente dentro, come è possibile già? Che non è che non ci stia, sono fatte in modo, lavorate in modo concavo, non sono piatte le parti, sono rientrate, capito? Non so se... A parte tutto! Diciamo una specie di appostamento. Eia! Potrei metterlo anche, grazie al consigliere, dove c'è il portaugino, a fianco. Però non fa, perché è concavo, capito? È scavato e non ci arriva la staffa è corta e non ci arriva per abitare. Ah, per quello, troppo bombate anche sotto, ho capito. Manuele, sei rientrato? Chi è che ha detto lampadi tutto? Avanti, buonasera. Niente, vabbè, battutina, lampadi tutto. Poi lui va sotto la finestra per la donna. Ehi, è come dico io, lampadi tutto, però dimmi dove lo butti che vengo col sacco condominiale a riempire tutto. Ah, poi non ho più sentito Pomponio da nessuna parte, né in PMR né in 27, è scomparso, non so come stia Simona, nulla, l'ho perso di vista proprio. Ah, vabbè, comunque già è entrato, dico. Perché un giorno avevo telefonato tempo fa, però probabilmente era lontano dal telefono, non aveva risposto, però non aveva nemmeno richiamato. E allora ho detto, vabbè, riproverò tempo dopo. Bene. È lunga, sono le giornate a casa, porca miseria. Lunghe. E tu già, hai ripreso a pescare? Ma avevi detto un'ultima volta che non avevano gli americani da che riprendi? Da Sportland o da chi? Da Sportland, sono andato, quando è? Venerdì sono andato. Ascolta, il prezzo degli americani adesso a quanto è arrivato? 5,50 euro. 5,50 euro, praticamente in lire sarebbero 10.000 lire e oltre. Mamma mia, mamma di turchi. Guarda che allucinante, è allucinante, quando erano in lire, quando andavo a pescare io 20 anni fa, cioè quando andavo, quando facevo finta di pescare, a quanto erano? Forse 5.000 lire, 5.500, adesso non me lo ricordo già. Prima dell'euro quanto erano in lire? Ma più o meno quanto gli americani, dai. più o meno quanto gli americani, 5.000 lire, una cosa del genere. E adesso 5,50, cioè 10.000 lire piene.